precedente modo, direi. Nel precedente modo. Buonasera, amico. Giomari, buonasera. Chi è che chiama? Dormito sei, Giomari. Come? Non ti ho capito. Dormito sei. Ehi, cazzo. Cosa vuoi, dormi tutto il giorno io? Io dormo 2 ore solo la sera e basta. Ma anche adesso hai dormito, ti sente la voce. Non credo, no. Dove sei? A casa, qua. Ah, qua, sì. Già si sente, dai. La casa tua proprio là, dove sei adesso, c'è una grossa differenza, L'avrei portata anche qua, Giovanni, ma ho stazionato e me lo brucio il palazzino. Basta fare passaggi corti, non succede niente, capito? Ma meglio non rischiare, dai. Quello sì. Ma ogni tanto, 5 minuti, non succede niente, dai. Non è che si bruci tanto facilmente, no? Già lo so, Giovanni, ma meglio non rischiare, perché è un palazzino che... sono tanti anni, ci tengo, dai. Lo so. Da casa tua te l'hai portato lì? Ah no, quello di casa rimane a casa. Ho capito. Che non si brucia facilmente, aiuga. Quanto sono stazionare? 2 e mezzo. Rotto, 3. 3, e allora comincia a essere un po' pesante. Beh, non si può fare niente. Non riusciamo a parlare questa antenna. Forse è dovuto dal cavo, è dovuto dallo stiletto. Rotto. Bisogna fare qualcosa, ragazzi. Cazzo, almeno lo usi, ragazzi, se non altro, ma anche lì, capito? La lucca, ragazzi, non se lo puoi fare mettere a posto questo progetto di stazionario. Allora, lui l'antenna l'ha provata a casa sua, la tarassa funziona bene, la porta qua è sostretta. Vuol dire che lì non c'hai massa. Se tu metti la massa vedrai che allora funziona bene anche lì. Capito, mi hai? Aspetta, anche la ringhiera, non va. Strano, proprio strano. Se anche da casa sua va bene, ragazzi. Perché lui attacca la ringhiera stesso, se non sbaglio, la massa, capito? Penso io. E così che dovrebbe andare anche da te. Molto lunga la ringhiera. A Puglia, sarà anche close, sarà 5, 6, 6 mesi, 7 mesi. Cazzo. Strano proprio, mettici un vasetto pieno di terra con un ferro dentro, come ho fatto io qua, io l'ho eliminato e sto arrivando qua, ho riempito un vaso di terracotta, ci ho messo un ferro, anzi 40 centimetri di un ferro, sì, stritto. L'ho attaccato un filo dopo al baracchino. Prova a fare anche quello lì, senza toccare la massa della ringhiera, vedrai che riesce a eliminarla. La magnetica dopo l'attacco, Giovanni. Ah? La magnetica dopo l'attacco. La magnetica è. Ecco, la magnetica è. Vuol dire questa magnetica non fa di massa, cazzo. Forse devo riuscire, ragazzi, te l'ho eliminato io in uno scaffale in magazzino, cazzo, la brucia. E un attimo tu. Già fai, Giovanni. Prova. Tu? E a Giovanni? Io. Perché stava parlando al telefono. Stavo dicendo, ma è la base magnetica, strano, se io la faccio a massa, no, proprio strano lui. Non so, Giovanni, è attaccata al termosifone, ma anche se la metto lì in terrazzo, c'è sempre 3, sempre rosso. Ma non è che ci abbia qualcosa al capo lui, cioè, mi sembra strano. Giovanni, se la dalla qualcuno me la faccio tarare, rosso, lo capita. E Luca, cazzo, senza bagnetti, sempre che c'è la moglie a fare il suo travaglio, strano proprio, per mangiare io con la frusta nera ho attaccato un filo allo scaffale che è in ferro, non ne ho stazionario. Il cipone non fa massa, capito? Perché perché Ghisa è Temercifone, non è ferro, è Ghisa. Scusa, ma scusa, è già stato molto. Ho Ghisa alluminio. Certo, di solito sono in Ghisa in alluminio. Certo. Beh, non fa massa, lì non fa massa, ragazzi. Strano proprio, Non so, vabbè, secondo me siamo voluti, poi dobbiamo cantare, una scena con la patata. Già, vedo un po', va, vedo un po' lui, perché deve fare massa, invece la magnetica, pure in macchina mia, la magnetica, secondo me se non c'è, non basta la massa della carrozzeria, capito? Invece se ci metti una massa direttamente dal piatto della magnetica alla carrozzeria, allora fa contatto bene. Lo so, vabbè. Provvisoriamente lasciamo qui, però un attimo, il tempo, guarda tutto, guarda come la camerata e come la fate tutto qui, era tutto. Fai così allora. Fai così. Grazie, non si è sentito. No, grazie. Sì, grazie ancora, l'avete ribiati. Sì, vabbè. Sta privato di sudare, sto piede gridato in Russia. Cazzo, L'ho sentito da lontananza poco fa, in PMR. Ma non mi ha risposto. Non può guidare il sistema. Vediamo un po' se c'è Tore, Massimo. Vediamo un po', ma Fisio, stasera sono in ritardo questa gente, bisogna gridarli, per carità. Per carità, per. Vabbè. Oh, vabbè, ho rinviato, ho detto lavoro, ho fatto, ma lavoro per il gioco, ma non si vede, se lavoro, cazzo, bisogna andare lui, bisogna andare, cazzo, i soldi vanno comodo, poi l'altra cosa magari ci fa, la salute è più importante dei soldi, però se non ci sono i soldi è ad amare burro lui. Ho fatto Mario, poi ti chiamo un altro, queste cose giornate, sicuramente ti offreranno dopo il tempo. Senza fretta magari, vedrai che non fai il momento giusto per farti quello lì, capito? Però se c'è lavoro meglio prenderlo quando esce, capito? Meglio metterlo che a mai dare lui sempre. Ah, io capisco. Allora, così bisogna fare, davvero. Da giovane facevo anch'io così, certo. Poco ma andavo, può essere una giornata, due ore, andavo. Però fermo mai, mai fermo, addirittura, i tempi miei, grazie a Dio, me la sono passata sempre bene. Peggio, ma certo. No, vabbè, mi sono sbagliato, io però torno ai tempi, no? Il telefono lui. Vai qua. Vabbè, c'è nessuno! Hola! Chi è? Sì, caspita! Adrumimmo! Mi pare che troviamo vero giusto, Siamo 3 ore con Luca chiacchierando qua, mi sono assentato un attimino. Non c'ero, sono rientrato adesso. Infatti lui. Dormito era Antonio. Infatti, era dormito, sì, si è svegliato adesso, infatti si sente che c'ha la voce strana. Dormito eri! Buonasera comunque. Tutto a posto il carrello? Sì, passato, fatto tutto. Non ti dico. 5 minuti vanno buscio. Un giro ce l'hai fatto oggi, sì? Un giro ci ha fatto un carrello. Con il carrello ce l'hai fatto un giro. Sì, motorizzazione in casa. Già, va bene, almeno sei tranquillo, va. Faccio per bestia di Dio. Vanno buscio, 5 minuti a fare la revisione. Ma lì ha la motorizzazione. Allora. Ah, sono lì a farlo per il carrello, la revisione. Prima dicevo di darla alle agenzie, che loro, invece non si sa nulla ancora, se le danno o no. Al 2020 a fare la revisione del carrello. Ogni 2 anni con la macchina, come la macchina è, no? Ogni 2 anni. Sì, ci ha segnata la scadenza. Ottobre 2020. Allora sei tranquilla. Avvia. Sei tranquilla, vado. A bene. A meno qualche giro in coso, il gommone ce lo puoi fare. E adesso torno a metterci i mozzi che c'erano prima, ci metto, perché quelli li lascio per la revisione, li lascio. E il filo che c'era prima metto. E sono a posto. Va bene, va bene. Luca! Sì. No, non lo senti a lui. Chi che lo sento? È lui che non sente a me. Sì, ti ascolto, forte e chiaro. Allora, Giammarco, sì, sì. Non lo so, guio. Ma... Ti ascolto, forte e chiaro. Che andiamo, andiamo. Ehi, ero a San Giovanni, ma già avevo arrivato il BMR, ma manco duccato, raggio. Il mio era aspetto. Ma il mio era acceso dalle quattro passate, là. Ehi, no, me l'ho portato, però l'ho lasciato in macchina, a che ero nello campo, ero. Se non lo usi è un altro discorso. Come io la domenica, no, se c'è di campagna che me lo porto appresso, alza durante il giorno quante chiamate faccio, e mi sembra proprio rispondere nessuno. Andiamo, andiamo, chiesta. Oggi è una giornata particolare per me. Quindi provo con la 27 a vedere se il gatto non mi risponde, boh! Sì, vabbè. Andiamo, andiamo. Luca! Sì, sono tutto visto, sono qua. È mito, sì! Certo, boh. Andiamo lì. Ma niente, ogni tanto assaggendi, cazzo, che devi, ci devi far mannu, cazzo, devi mannare, Edu, capito? Magna, Lu, magna! Ah, così è, e stasera 10? 10! Ah, è certo! Ma, chissà che ti gridi, Ci devi credere, Gio Marie, se no andiamo male. Sarà così, Lu. Ma vabbè, meglio che dopo vabbè. Senta ancora quell'intervento, non lo fai, per cui ma già almeno delle più forti di bene. Tra voi una di prima fai a dieta. Capito, Aito? Sì. Ho capito, sì. Ho una fettina in meno, stai mangiando. Andiamo via allora. Vedrà che da voi non senti più dolore. Infatti. Sto mangiando, allora manco un quarto, fai via l'appuntamento a San Camillo. Ormai va trugo, è Nerugudo, in divisorie veni, Nerugudo. Ma controllato. Intendi, a pensare ai battiti del cuore, sentivo. Ma le colopres? Non lo so come si chiama, è qui nel collo, ma poi tu che sta pomata. E poi mi ha passato il macchinario tipo come fanno tipo ecografia. L'eco è fatto al collo. Devo vedere un po' come il sangue, se pompa bene, se circola bene. A te la faccio sentire come pompa. Se no lo guri. cassa. L'avevo fare anch'io, lo devo fare a cosa? A Plattamola. Devo fare qua bene. Il 27 di novembre. Ah, il 27 di novembre lo devo fare a Plattamola. No, io l'ho fatta a San Camillo, l'ho fatta. Ero un secondo. Se cosa va più? 5 minuti. Controllato, ho fatto e mi ha dato l'esito. Ed è tutto a posto. Ehi, ehi. Ah, va bene, tu. E dove vai a giocare? Cade che l'ha giocato? Dove va? Dai, anche la dottoressa di là. Mi pare che di anni fa l'ha giocato, buco. Mi pare che l'ha giocato, da? Perché la storia civile ha secondo piatto in proprio. Ah, la storia civile l'ha fatto 2 anni fa. Ma di tutte 3 volte è venuto. È la prima volta che vengo. Ah, che quello bisogna fare. Perché c'è un ritardo 1001. Sì. Quasi una lucina non mi fa fare anche la vista degli occhi. Mi fa fare. Quella io, la visita degli occhi me l'ha messa l'anno scorso, l'ho fatta. E quest'anno non me l'ha messa. Chissà che non me la bongiamo il prossimo anno. Ci voglio questi controlli, almeno sei tranquillo, so, dai, questi controlli bisogna farlo, se no è chi dà ragione. Oh, yeah. Anche la visita cardiologica l'anno scorso l'ho fatto, allora, lunedì devo andare a fare il prelievo, fare le analisi. E noi abbiamo dato l'appuntamento dalla diabete, ma prima devo fare le analisi. Con il cuore. Sì, e l'elettrocardiogramma devo fare anche. Sì. E poi quello lì glielo porta alla dottoressa, capito? Già è così, sì. Già sì. Prima le analisi e poi il 7 devo andare. Il 7 novembre devo andare dal diabete. A dicembre dobbiamo andare. Luca! La porta la mia madre io. A proposito, come sta Luca? Già sta bene, dai. Quando è che devi portare al teatro diabetico? A novembre, in giugno, da tutto qua. Ok. Ma quanti anni c'ha la tua madre tu? Mamma era 46. Da 2 anni c'ha? Quando? È giovane là. No, ma già, 72 anni. 72. 46? 46, Nel 46 allora. Mia moglie è 42, 2 anni più grande. 4 anni. Sono che sono grassato. E qual è che ci ha fatto la mettola? Una con gli occhiali, quella della fame. Aspetta che è una con gli occhiali, quella della fame. Ma Palazzo Rosa? Vedi ce ne sono 2 o 3 mi sembra. No, non ce ne sono. 2 o 3 ce ne sono. La fame, no? No, io ho la fame, no, c'ho. Vabbè. E poi come c'è la fascista, come ti ha detto? Fascista, ho capito. Sore! Ehi, a Giomarino. Sono qua. Ah, chissà, è ancora non è entrato Bacchisio. Bacchisio però si sente, chiamalo tu. Attenzione Bacchisio, se sei tratteso con qualcuno. Chi si è perso in cammino, si è perso gatto. La bocca di rubini. Portati là. I due pezzettini di cosa, sì che me li ha portati. Ieri sera. Giovanni, tuo nipote a che punto è? Tuo nipote a che punto è? Boh, lui, sai che non so più andato io, non ho avuto tempo, capito? Non lo so cosa, a che punto è. Per essere sincero, non lo so. Andale. Oggi ci vado, ma ci vado, non mi sto andando ancora, non ho avuto tempo, poi è meglio lasciarli fare. Ma definito e ci vado. Ah, senza un bel dubbio, avanti ciò. Io sono qua. Sono qua, qua, qua, qua. Attento, signor Bacchisio. Attenzione, signor Bacchisio, se ci sei, ci sarà ponendo a posto un microfono. Ciao Maria. Allora. Aspetta, stavo cambiando. A cuore freddo. Per andare dove? Ho cambiato sedia, ho cambiato sedie, perché una è troppo dura. Perché scomoda era l'altra? È troppo dura era, che adesso qua c'è il cuscino e sto più bene. Usato del posto. Tu sei un po' morbido, che adesso già sto bene, là. Adesso c'ho quella sedia di Repole, c'ho, per cui c'è un cuscino anche, sì, che già è morbida. Io sono sul letto, in cameretta. Tore, dove sei in sala tu? No, io sono seduto nella camera, mi c'ho il cane dietro, che è un pochino drumbillo. Hai visto che radio che c'ha a Lucca, è fortissimo, Sì. Ho capito, no, Gio Mario. Che Luca, nonostante che sta stazionaria, sta uscendo bene, è fortissimo anche come segnale. Se non ha messo bene l'antenna, non ne dovrebbe avere stazionario. Luca. Ehi, Gio Mario. Sei 9:20, sì, Sei 9:20, la radio è sempre andata. Oh, vabbè, la voce tua è quella lì, Bella grossa. Ehi, tu anche di tutti i letti, perché so. Oh. Cazzo, se tu metti un'antenna lunga lì, dove stai adesso, attore lo superi, Vabbè, sempre tutto per parare, faccio una finta troppo, buru. Allora, anche troppo, per cui, tranquillo, tranquillo. Non dobbiamo andare in America noi, no. Noi diciamo solo in Sassari e basta. E poi si accostano, meglio così. Io ti sento, l'ho pazienza. L'importante è che sentiamo noi. Come dice quello, il proverbio. Se andava, andava, se non andava, la giambemmo. E se non andava, se fu festa uno, o no? Luca, bene, andando a te. Tutto. Che andiamo via, andiamo. Perfetto. Così è. Vabbè. Vuoi dire se compare un'uva? Attenzione, signor Bacchisio! Una mezz'oretta fa e più! Ha dato un grido! Dice sono in barra mobile, però non ho fatto il tempo a pigliare il microfono, a risponderlo. L'ho risposto dopo, ma non mi ha risposto. Va a portare la macchina in garage, Non se la contiene anche il microfono. No, parlavo di Graziano. Cos'era? In barra mobile era. No, Graziano che ha fatto la chiamata e dice che era in barra mobile. Un po' come grido, ma in coso? In PMR? Eia. Ha fatto la chiamata e si vede che aspetto. Ha visto che non verrà nessuno, magari una giarga da fa. Capita, attende di scusare una, boh, io quando attendo un attendio, si chiama le mogli, io chiamo la mattezza, c'è pazzesco, Ah, ti ha messo i baracchi del mare, Cos'è lui? Ho detto, ti ha messo i baracchi del mare, Graziano. Oh, babbo. Graziano. No, ma si vede che ha fatto la chiamata così, magari era a casa, però magari ha detto che era in macchina, invece era a casa, forse una battuta ha fatto, dai, non ne mette in macchina, no, a quest'ora poi. Già ancora la vede ribiati, a chi dici che sei tra la gente dietro. Sì, vabbè, quasi la va piano. Noi ci rifiamo appena che mangiamo. è rimasto sempre pulito. Ma hai stato così saggio, no? Oh, mai! Lui si vede che mangia e si riposa. Dabla che si innalza, allora fatti una cosa, fatti ripiazzo. Lasciamolo fare, almeno si svaga, vai. Almeno ammazza il tempo. E se ti zapparaggio è sempre. Bravo bambino. Basta che non ammazzi a lui. Ripeti ciò. Fatti. Se la luce, boh, non lo so. Chi tu pensa farsi via da voi i piatti? Ah, lui appena che mangia, mangiando. Che ripremo, che sta? Dai che sto tu pulito, allora pure si può pure bucare o no? Se una gana, se una gana non così, se no è abituato così. E poi ognuno fa come c'è il mare di altri, non è che noi a farlo lo fanno, perché ognuno fa di caso di piatti e rifatti la cosa, è giusto che sia così. Infatti, se è così è così, se no pazienza. Si attenta. Sì, andiamo così, andiamo. È bello, oggi dovrebbe essere lavorato. No, ragazzi. Ho saputo che deve fare un lavoretto. Pensavo che fossi già andato invece, boh. No, non dobbiamo parlare di niente. Ah. L'ho fatto o no? Sì, ho dato l'ok, però forse la prima. E io ho rinviato l'operazione, no? Dove si operare? Si è operato a 30, questo non mi piace. Mi ha fatto scontare. Se c'è da fare col lavoro. Fatelo pure, che entrano i soldini, che i soldini fanno comodo in casa. Al notto. Via di voi, ma ho fatto preferito più lavorare, ma devo anche soldino per l'operazione già fare. Eia. Bisogna fare. Tore! Ah, io non lo so. Non so nulla io. Vabbè. Sarà così? No, la giambemmo e bu. No, non sa mai niente. E invece sa tutto. Dai, ciò, di la verità. Sì. mi sa che devo comprarmi un giornale. Vai. Attenzione, signor Bacchisio. Non deve darsi arrivato ancora a casa. Dicono che i soldi fanno il freno. Non è mai da detto. E non mi dici che non ti vieni, no. Ma... un attimino lui riprende e si è rientrato su. Signore, tu lo travaglia. Sì. Mi sa che non avete gare e fa da oggi. Sai, Gio Maria va a mangiare piena, non la vado a mangiare. Bene, Gio Maria. Va bene. La focaccia. E chi è? Maria, ascolti a questo. Aspetta, Maria, raccono di... qualche spagnolo. Hai parlato tu, te l'hai portata appresso. No, non ascolto più. Ma io ho detto strano. Ma non lo intendo più. Prima lo sentivo bene, ma non intendo più. Parisco. Deve essere già come in banda laterale, però dei canali più avanti o più indietro, boh. Infatti qualcuno in banda laterale deve essere. in qualche canale più avanti. Vabbè, questo malattino qua così non è presto, così non è a fianco. Doveva essere in due o tre canali più avanti, doveva essere. Sicuramente. Maria, non Maria non ha niente. Chi è che sta brontolando? Zucca! Dove? Eglia, eglia! Chi è che sta brontolando tu? Oh, degli splatter sento! Oh, deve essere in lontananza adesso! In lontananza sono, infatti, a 31 sono! A 30 e 31! E ma cazzo splatterare così tanto, non sono qua, sono da fuori, sono so. Oh, non lo so, andava bene. Va benissimo. E cazzo, ma fa veniva a sentirli noi, cazzo, del 23, boh. Cazzo, cazzo, come stanno pompando questa gente? No, aspetta, deve essere qualcuno che è canali più adiacenti e sta splatterando, avanti, capizzato. Deve essere pompendo un fogaretto e c'è meno qualcuno là fuori. Ma non so prima M. Aspetta, controllo. Manda laterale. Vabbè. Manda laterale, però deve essere qualche canale più vicino a noi. Aspetta che controllo. Su 23 in banda solo. Eh? Mi faccia su 23 in banda solo. Sono sul 23. Boh, io li sento tramite coso, li sento, in maniera che è in FM, invece sono in banda laterale, sono. Ma deve essere di coso, chi è? Chi è in banda laterale, chi è? No. Ma ne ho banda io! Sono fuochini tu! Sono fuochini, ero fuoco per tutto! Buonasera! Il microfono è già andato, Bacchi. No, è il microfono giusto. Ma li senti questi qua, banda laterale? Il banda laterale è giù. Banda laterale. Perché come si sente questo microfono, tu? Ah, io si sente un po' bene, sembra che sia però appena... cuffa, appena però. Guarda che ha passato mai che gente. Adesso è meglio. E questo è sempre la fagliette, ma il microfono della la fagliette ha fatto quello e vince anche 34. Ho provato a cambiare la batteria in quello non lo da fare. Ho cambiato la capsula, ho sfasciato col microfono della Midland, avevo comprato la torre, ci ho messo quella capsula lì, non lo da fare, non va. E allora cosa hai messo? Ci ho messo la capsula di quel microfono della Fayette, ma non la Midland, ci avevo comprato la torre CCBC. E non esce lo stesso. Ho cambiato la batteria e non esce lo stesso. Nulla. Importante poco. Modulazione nulla. Deve essere ancora qualche cosa da guardare. Sto pensando non sia staccato qualche filo nello spinotto. Ma uscendo adesso stai uscendo bene. Questo è il manuale, il preamplificato non esce. Ah, il preamplificato non esce, ma l'MP4. Ehi, ci ho cambiato la batteria e non la fare. E sto cambiato il microfono, la cosa, la capsula, cioè non l'ho detto, ho passato il microfono della Midland, cioè l'ho comprato a Torino, ci ho soldato quella, non la fare, adesso picchia e picchia di male. No, ci vuole la capsulina sua, ci vuole la capsulina sua, io non ne ho, vedete quelle lì. Naggio manco una, non naggio. Ci vuole quella originale sua, ci vuole. Originale, no. C'era sempre la capsula di quelle fasulle che funzionava sempre bene. Questo periodo cosa fa? Non lo va a fare. Ho misurato la capsula, c'era buona, è perfetta. È perfetta, ma i valori ci sono. No, invece c'è qualche tiro staccato, dello spinotto, perché l'importante va, vale giusto, però non vale la lavorazione. Ci deve essere qualche interruzione, ci deve essere in qualche cosa, boh. O è delle cose di capsule che non vanno. Ho misurato la cosa. La batteria 9 volte qualcosa la nuova, però misurando poi all'uscita, strada facendo, non mi dà 9 volte, mi dà 6 volte qualcosa. Oh, no, 9 volte deve dare, non sì, 9 deve dare. E infatti ci mette qualcosa in quel tragitto lì, bisogna che lo metta a panca in alto e lo guardi. Bisogna guardarlo bene, che non ci sia... Che non sia qualche transistor che non si sia bruciato. Bisogna vedere, bisogna aprire. Bisogna guardare lo stomaco, come ce l'ha. Tu devi fare tutto lo circuito, ne devi fare. Sì, per tutto, bisogna operarlo. Anche ho fidato, ho fine fatto. E che sono qua, mi signor Bacchiglio, buonasera. Ma prova a guardare dell'attacco della batteria, perché di solito tocca o non tocca il capo da quella piattina, capito? Può essere anche da lì, ma diversamente non può essere, perché se l'apparecchio esce col microfono normale, deve uscire col microfono amplificato. Se non esce con l'amplificazione vuol dire che c'è un filo di saccato, ma è normale, no? Controlla la placchetta dell'attacco della batteria. Può essere anche da lì. Ci ho pensato anch'io, come, perché strada facendo, ripeto, non dà 9 volte, ma mi dà 6 volte qualcosa, c'è dispersione. Dunque l'alimentazione non è sufficiente per fare funzionare l'amplificato. Se il tessere c'ha la batteria scarica, non te lo dà le 9 volte, ho capito, perché lo fa anche a me. Invece di mettere la batteria nuova, vedrai come te lo dà, capito? Tu fai così, prova a controllare la placchetta dell'attacco della batteria, che lì magari c'è il filo, tocca, non tocca e non te lo fa uscire, perché l'apparecchio non c'è niente, davvero, l'apparecchio non c'è niente, è tutto dal microfono infatti, capito? Può essere con l'attacco che c'è distaccato il filo della corrente della batteria, oppure la massa. Sembra che sia attaccato, invece magari sarà distaccato. Anche quello, perché la batteria, ripeto, l'ho messa nuova poco fa. La vecchia mi dava 9 volte, quella che ho tolto, e 9 volte mi dava nuova. Però strada facendo, non arriva 9 volte all'amplificazione. E dunque, come dici tu, quella batterina che c'è che attacca la batteria, forse qualche filo, tocca o non tocca, e arriva poca tensione. Ed è dal microfono, è sempre da tutto al microfono, perché se tu esci bene, dici che il jack del microfono dell'apparecchio senz'altro è a posto. È tutto dipende dal microfono, così che è il microfono che c'è qualche filo che tocca o non tocca, tutto lì. controlla bene, vedrai che forse sarà così, magari se non lo vedi e aprilo con una lametta poco a poco e vedi un po' se è attaccato oppure no. Infatti. Domani sera lo metto a panchina in alto, adesso no, faccio la visione solo. È già tardi. No, domani sera lo metto a panchina in alto. Gli faccio l'operazione. Chiamo il dottor Stranamore e gli faccio fare l'operazione. Bravo Bacchi, d'accordo, va bene, dai, io vi saluto. Buon presimento, buona chiacchierata ancora, saluto la vostra QRA. Ci sentiamo Bacchi domani, mi raccomando, controlla bene. Ciao a Cattore, riprendi ciò, chiudo. Ok Giovanni, ci sentiamo domani, ci sentiamo, ok. Luca, ancora ci sei. Ciao Giovanni, ciao anche a Bacchi, dai. Scusa, mi è cazzo. Ciao Luci, sentiamo, salutoni. Ah, tranquillo, ciao Giovanni. Ciao Giovanni, buonanotte. Ciao Giovanni, buona serata, buon servizio, buon tutto. Ciao Luca, buonasera, te l'ho salutato. Ma che andiamo sentito. È tratto da solo strano amore, avanti, lo so. Ehi, buonasera a tutti. Perché sei in basso di raio, Bacchi? Sai, non so lei. Perché sei in basso di raio, un po'? No, ma stavo al sole, abbassare, ho abbassato perché gli arrivavo troppo forte. Adesso già ti sento bene. Catabu. Siete vicini ai controlli, per forza ti dice così. Siete attaccati in linea d'aria. Ma qua ne vado in basso, mi sembravi in cantina. Perché sono in cantina, sai che io vado in cantina, perché c'è il vino buono. Quello già è vero. Meglio il vino buono che altro. Avanti Tore. Ehi, uia, andiamo via, andiamo. Ciao Antonello. Catta, Bobbo. Andiamo bene, andiamo. E allora? Ciao Bobbo. Ciao Luca, bene scucito anche a te. Sei basso mi Luca, ma la presa non mi porta, esatto. La magnetica. La magnetica, ehi. Prenditi un pezzo di tubo di plastica, metti il cavo da 1,5, 5,50 metri, giro giro intorno. Dopodiché il positivo lo lascia dove c'è in pratica il capo, il negativo lo agganci a massa e ti sei fatto il bazooka. Non è che ci voglia tutta questa gran spesa, no? Vabbè, detto così è fatto, vedere come è fatto. Sto dicendo, io il bazooka l'ho costruito, ce l'ho qua piazzato fuori nella gaffa del tetto, l'ho fatto per Giuseppe Leoncino, perché era senza antenna. Capito? L'ho costruito così. Un pezzo di tubo di plastica e poi un pezzo di tubo di metallo sotto di quelli di basamento per quegli argigi del bagno, ce l'hai presenti, quelli dove ci metti gli asciugamani. Capito? Io ho fatto il foro, gli ho agganciato il PL, è perfetto, 1-1 stazionari. Ecco, la parola. La voce mi ascolto forte e chiaro, dai, mi senti ciò. Ehi, andate. Ehi, vengo subito. Ehi, anda. Va a fare tutto quanto. Ma chi comunque fatta la revisione, vai tutto a posto. Ehi, così la facile hai. Ah? La cosa la targa, facile hai. No, si è mancato di voce. Ho detto, se ne hai fatti quei volumi. No, non ho fatto nulla di quello. L'ho messo l'ho preso, l'ho portato in garage, l'ho messo e che l'ho lasciato così. La devo far fare. Ah, un poco preso, andrà bene vera. Antonello, perché il mio microfono non esce? Il tuo microfono non esce? Ma quale? Quello che ho tirato io? Domani, buonanotte. Ok, ciao Luca, buonanotte, a domani, tutto va bene. Avanti, so. Ciao Luca, stammi bene. Sogni d'oro, andrà bene. Riprendo Antonello. Ciao Luca, ci sentiamo alle prossime, stammi bene. Che microfono stai dicendo, Bacchi, quello che ti ho dato io? Quello va bene solo per il letto, la paillette. FM500S oppure come si chiama? 504.6 non per il terminal 9, è stato meno per il tornado. Chiama la lezione, esce solo di portante, è ronzio. Aspetta, non ti ho capito nulla, cosa hai detto? Ho detto esce di portante e ronzio. Ma quello che ho trovato io? Oh, quello sto trovando questo qua, è quello che ho trovato tu. Ah, allora già va bene, mi stavo già spaventando. Infatti ti avevo detto, guarda che va bene solo per quell'apparecchio. E l'altro quindi esce solo di ronzio e di portante, quindi manca l'audio. La capsula senz'altro sarà. Controllagli la capsula, perché evidentemente ho caduto in terra o non lo so, umidità. Stacca la capsula da quello che ho fatto io, da quel microfono che ho fatto io. Quello grande grande. E se ci sta c'è le filine in quello che dove non esce il radio. Non ci va, ho provato la capsula di un microfono nuovo che ci aveva usato della cosa, del Midland, gli ho messo quella lì, quella piccolina, non va lo stesso. C'è messo qualche filo staccato, perché l'alimentazione parte del 9 volts, però arriva alla basetta a 6 volts. Ah, il microfono amplificato allora, non è normale. No, è amplificato. Ah, se parte da 9 e arriva a 6, allora c'è un corto. Capito? Ah, va, non sei riuscito. Allora questo microfono sta cominciando a rompere nuovamente. Ah no. Aspetta, vedi un po' adesso. Adesso va bene. Se tu non schiacci bene il pulsante non ti sento. No, non è, non mi senti, si era mollata la ghiera del microfono. Ah, è vero. È una cosa diversa. Ah, antitore. Siccome me mi giocciamelli. Ci sentiamo domani, ok? Ciao Marchigio e ciao Antonello. Statemi bene. Buona cena e tutto quanto, ok? Ciao a tutti. Ehi, ciao, ci sentiamo dove? Alle prossime, stavi bene. Avanti Marchi. Ehi, ciao Tore, buona serata, buona cena, buon tutto, saluto la signora. A domani. Anda bene meno, dicevo qua. Ha capito Antonio, così è la vita. Già lo so che così è la vita. Uiuia. Adesso devo controllare se riesco a mettere a posto un coso. C'ho un V e U che mi hanno regalato, se non riesco a metterlo a posto, sai cosa faccio? Lo do a Giovanni Freccia, li faccio fare 5 portate, li faccio fare. Poi mi chiamo e li metto a posto io. E mi sono fatti, dare anche. Ehi, se me lo va, il discorso è quello. Adesso vediamo un po'. Siccome l'apparecchio non è un PMR, è un Kenwood, capito? È un VU e quindi vale un sacco di denaro. Ricordami, se di quei cessi che c'hai tu, poi già me l'aggiusto io, gli dico. Se poi c'è anche qualche microfono da dare, faccio dare anche qualche microfono, cosa vuol dire? Se me lo dà, se no faremo la bancarella in Piazza d'Italia. Qualcosa in Piazza Fiume, dico vai lì, ci mettiamo tutti gli apparecchi che non utilizziamo e ce li vendiamo, chi passa se li porta via. Non sei uscito di radio. Ho messo, c'è il frequenzimetro. Ho capito. Quello che deve riparare, c'è il frequenzimetro. Ah, quello delle macchine, tu vuoi. Cai giù tu sei macchine. Ah, ciao, me. Ho tutto l'apparecchio. Antonello, mi ascolti? E cosa ti è successo? Ti è caduto il baracchino in terra? Ho ho cambiato baracchino. Perché non avevo niente a fare, le bici allora ho cambiato. Ah, mi stavo dicendo le frequenze, ma quel baracchino delle quattro frequenze mi toglierò, sai cosa bisogna fare? Bisogna che mi metto la... quei cosi, quelle... quei pulsanti che ho detto quando faccio la schermatura e li appoggio lontano dal frequenzimetro, se no il frequenzimetro segna male. Il problema è quello, come vado vicino al frequenzimetro e metallo, non segna più bene. Ho capito. E dice vabbè, piano piano, cioè, lo sistemiamo, cioè c'è quest'altro. Questo adesso 4 watt, quello mi dava 5 qualcosa. E che invece non gli metti i pulsanti come erano, fai prima, scusa. Gli metti dietro i pulsanti come erano prima e ciccia. Tanto, cioè non è omologato per niente, ma con quello in teoria. È come il mio tornato delle tentacole che ho io. Sarà uguale, ormai sono tutti quelli marcati c'è omologati. Quindi a meno che non gli metti la disivoce dei cinesi. C'è, non c'è nulla quello lì, è un omologato del 98, non è di oggi che l'omologazione è quello lì. Ma non vale nulla, capito, non vale niente. Anche se ce l'hai in concessione da tanto tempo, non vale nulla. Come vogliono quelli marcati c'è e basta, capito? Adesso in seguito me lo comprerò, non ci sono neanche pensato adesso a prendermelo. A parte rimarrebbe dentro la scatola perché non voglio dire nemmeno, tanto perché ne ho 5 o 6 qua, non me ne voglio proprio più da me di quelli marcati c'è. Ce ne ho uno solo, no, due ne ho marcati c'è, c'ho un portatile. Il portatile è quello della Lafayette, il mercato c'è e questo che ho comprato ultimamente. Quello puoi usare, puoi segnarlo come apparato alla collezione in pratica, capito? Lo puoi detenere, quello sì, staccato dal microfono dal cavo, basta, non devi fare altro, ci metti il cavo e il microfono dentro alla... nel caso dovesse arrivare in controllo, lo metti dentro a un cassetto e non ti succede nulla. Capito, lo dichiari, guarda, io ho fatto dichiarazione che ho questi apparati qua della collezione, basta, tutto lì. Oia, ce ne sono qua quanto? 1, 2, 3, 4, 5 e più 2 ancora giù in casa, 7 li ho in tutto. È appunto per quello, fai la dichiarazione, non lo so adesso se si possa fare in questura, come si faceva una volta, si faceva la dichiarazione in questura, cioè degli apparati da collezione, ci metti il nome, la marca, il numero di serie e basta, quando vengono me la prendi dal quadro, guardi, questi sono gli apparati che ho da collezione e sono metti esposti. Senza cavo, senza microfono, quindi non li posso utilizzare in pratica, ce li ho per bellezza. Questi sono gli omologati, quindi gli altri non te ne possono manco toccare. Ma il grande già se lo posso portare via però. E neanche quello tocca, non ti preoccupare, perché Mario Massimo non avevano toccato nulla. L'avevo fatto fare la dichiarazione io come apparati la collezione e non gli hanno toccato proprio niente, l'unico apparecchio che gli hanno portato via era quello che era 11,45 metri, solo quello, gli altri li hanno tutti restituiti, perché avevo preso il foglio del field serve e capito, e c'era la dichiarazione di questi apparati qua, doveva essere la Giovanni Freccia la coppia di quella. Quando lo trovo bisogna che glielo chiedo, e così anche la questione di sequestro degli apparecchi, perché ce ne sono due in questura, adesso non so se ci sono più la verità o le poste, c'è un Saturneco nuovo, che hanno sequestrato un bombolaio con lineare, e gli ho detto alla bombolaia, ho detto perché non vai e non ti fai la domanda di sequestro, dice non me ne frega niente. Ho detto guarda, se mi avessi fatto il foglio come delega, gli ho detto, beh, me l'avessi dato a me, se era tu me l'avrei tirato io, gli ho detto. Gli ho ammucchiato, dicevo, ce n'è. Allora, io da figlio lo faccio sparire. Li faccio sparire, ne lascio solo uno e basta, gli altri li porto in un cassetto. chiusi e non vedo niente, nessuno. No, non c'è bisogno di farli sparire, basta fare quelle foglie, aspetta un attimo il telefono. Beh, Antonello, è arrivata l'ora per me dei medicinali. Te saluto, sentiamo domani se tutto coincide. Ciao, dottore, buonanotte.